Let me go!

penetra portante uscire, no. Entra, no. Entra. Non credete, non puoi uscire. Entra, no. Entra, no. Questi brilli non sorridi. No. Se verità, nasconci, nasconci. Aprite la porta, vai, vai, uscire. Presta, no. Johnson d'inferno. N'ho seguito la traccia, deve esser qui, dov'è? Oh, avete seccato con questo vostro rabis! E là? Per Dio ne son certo, non può esser fuggito, non può esser che qua. Thank you. piano. Forse m'avrò graffiato. No, non c'è graffio. Guarda, il sangue ancora. È là, è là. Sacramento, la scelta a noi, a corda, a pistola. Di te perso e distrutto, ma se vinco t'avrò. Aspettate un momento. Che aspetti? Cerco un mazzo nuovo. Son pronto. Taglia. A te. Due mani sopra tre. Quante? Due. E a che tu l'adori? E un paio. Niente. Pari, siamo pari. Evviva. Ora è la decisiva. Sì. Taglia. E t'avrò fra la mia braccia. Vedi, vedi, ti vinco. Presto giù, per pietà. Ma che cosa stai? Che devo darvi? No. E devo anch'io. Vedo, ma gli chiedi dov'è? Presto giù, fino a chi ne per pietà.

andiamo. Thank you. 今天的歌舞剧场就到这里，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典有限频道下面的精彩节目。